In questo venerdì 9 settembre vediamo le aperture dei quotidiani principali per il Sole 24 Ore, BCE, Italia in linea con gli impegni. Tra l'altro vi segnalo un'iniziativa del Sole 24 Ore culturale molto interessante. Da oggi è in edicola il primo volume di una raccolta anche in audio della Divina Commedia, declamata tra l'altro da Vittorio Gassman. Ve lo segnalo perché oggi c'è il primo numero imperdibile in edicola. La Stampa anche apre sulla situazione manovra Italia e allarme crescita, ma poi la maggior parte dei titoli sono legati alla vicenda intercettazioni. L'anticipazione dell'Espresso di Berlusconi, che avrebbe detto alla Vitola resta all'estero. Ecco qui il Corriere della Sera, Premier al telefono, un caso. Per Repubblica il Premier, la Vitola non tornare. Per il Fatto Quotidiano, prendi i soldi e scappa. Per il Messaggero, Berlusconi, nuova bufera. Mentre il Giornale punta su PD, tangenti alla gola. E Libero, la truffa delle province. Ecco qui quello di cui parlavamo. Questi alcuni titoli d'apertura, ne vedremo più avanti altri. Intanto le segnalazioni da cui voglio partire. La prima è quella che riguarda la manovra, un aspetto della manovra. La manovra che nel tagliare e togliere ha anche abolito praticamente le feste dei patroni, accorpandole alla domenica più vicina. Cioè, giusto per capire, quest'anno Sant'Ambrogio a Milano cade a mercoledì, il 7 dicembre, abolita la festività e bisogna festeggiare la domenica più vicina, più prossima. E ovviamente c'è una rivolta. Gennaro e Ambrogio, ecco la guerra dei santi patroni. Così sulla Stampa Antonio Salvati racconta di come Napoli e Milano combattano la loro guerra santa, ma anche immagino altre città, a colpi di petizioni da firmare, ordini del giorno da approvare. Lunedì il Comune di Milano approverà un ordine del giorno per chiedere al governo una deroga per Sant'Ambrogio, la stessa concessa a Roma per il 29 giugno, San Pietro e Paolo. E poi a Napoli, quest'anno il 19 settembre cade di lunedì e il cardinale Crescenzio Seppe tra l'altro ha detto: mica posso dire San Gennà, aspetta, fallo domenica il miracolo. C'è una questione anche del miracolo, della liquefazione del sangue. Ha una sua peculiarità, no? È un evento che avviene in quel giorno, fa sapere il cardinal Seppe, non è che posso spostarlo la domenica. Insomma, pensate che la Padania ci titola oggi: giù le mani dai santi, nella rete dei tagli della manovra finiscono le tradizioni secolari e i sentimenti radicati sul territorio, si moltiplicano invece le solennità civili lontane dalla gente, e la Padania tuona: che ci resta? Ci restano solo i falsi miti e il faccione di Garibaldi. Insomma, questa rivolta contro l'accorpamento alla domenica più vicina delle feste patronali. L'altra storia che vi voglio raccontare prima della pubblicità è quella trovata sul Giornale a pagina 21, una storia davvero drammatica, ma che in Italia purtroppo spesso accade. Uccise un giovane, lo liberano e va a rubare. È la storia di un moldavo clandestino uscito di carcere pochi mesi dopo aver investito e ucciso un ragazzo. E adesso è di nuovo in cella. Nell'ottobre di 2 anni fa, fuggendo tra l'altro dalla polizia su una Mercedes rubata, il ladruncolo moldavo aveva compito in pieno un utilitario ammazzando un ragazzo di 22 anni, riducendo in fin di vita 2 suoi amici. Poi era anche scappato ed era stato preso qualche giorno dopo. Siccome però era 17enne, incensurato, è rimasto in carcere pochi mesi, è stato liberato ed ora è stato riarrestato perché è stato pizzicato a rubare. Una storia che racconta Enrico Silvestri a pagina 21 del Giornale sotto il titolo Ingiustizia all'italiana, se il malvivente è recidivo. È una storia davvero brutta, ma ripeto, purtroppo non è la prima che raccontiamo anche qui da questi microfoni, che avvengono di ingiustizie, in questo caso che riguarda questo cittadino moldavo che all'epoca del primo delitto, l'omicidio, aveva 17 anni. Ci fermiamo per la pubblicità. E allora, alle 7:34 minuti, continuiamo la lettura dei giornali con la manovra in primo piano. Beh, c'è Trichet, la Banca Centrale Europea, con Jean-Claude Trichet, che ha espresso un giudizio positivo. Bene le misure italiane, così titola pagina 3 Il Sole 24 Ore, dal governo provvedimenti di estrema importanza in linea con le richieste della BCE. E questo è un segnale positivo anche alla luce dei mercati. Il presidente della Banca Centrale Europea, scrive Alessandro Merli da Francoforte, ha definito proprio di estrema importanza l'attuazione della manovra di aggiustamento dei conti pubblici in via di approvazione in Italia. Non abbiamo imposto niente, ha detto Trichet all'Italia, non abbiamo negoziato col governo, abbiamo mandato dei messaggi sull'obiettivo di ristabilire la credibilità e il merito di credito. Dunque, un aspetto positivo che però va controbilanciato da una notizia non certo positiva che proviene invece dall'OCSE con la pagina 4, sono del Sole 24 Ore, area OCSE a un passo dalla stagnazione, abbiamo sentito anche nel giornale radio, l'organizzazione, racconta Marco Mussanè, ha tagliato le stime di crescita, addirittura col PIL italiano del 2011 rivisto da più 1,3% a più 0,7%. Questo è il problema, dunque, la manovra dove i tagli sono stati fatti, dove in linea con le cifre che sono state mantenute, dice la BCE, ma la richiesta che fanno tutti gli aspetti, tutti gli settori produttivi del paese è: cosa c'è per la crescita? Bene, l'area OCSE dice attenzione, perché addirittura le stime di crescita per il 2011 del PIL italiano vanno riviste al ribasso, 0,7%, più 0,7% e non più 1,3%. Ma è tutta la situazione di rischio stagnazione, dice l'OCSE, con l'andamento delle principali economie sviluppate nel secondo trimestre dell'anno che è stato nettamente peggiore di quanto ci aspettavamo, un ritmo di sviluppo degli emergenti che sta rallentando, un commercio mondiale che ha smesso di crescere, la disoccupazione che ha smesso di scendere. C'è anche l'impatto sul Giappone del terremoto, dello tsunami più forte del previsto, insomma una situazione globale che fa titolare per esempio al Manifesto in prima pagina, il boom, e certo è un titolo non confortante, e la recessione secondo l'OCSE a pagina 2 e 3, il Manifesto si concentra su questo. Dunque, apprezzamenti dalla BCE, ma segnali non positivi che vengono dall'analisi dell'OCSE. Questo per quel che riguarda una visione più europea, più globale della manovra italiana. Poi, se ci vogliamo concentrare su quello che è successo in Italia, la manovra, sono tantissimi quotidiani che si concentrano sul tema che poi noi svilupperemo alle 8:15, vale a dire tutti questi tagli promessi. Ci sono stati, soprattutto per quel che riguarda i tagli e i costi della politica, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, tutte le promesse non mantenute sulla riduzione dei costi della politica. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, due pagine intense che raccontano dov'è finita la promessa di dimezzare i parlamentari, perché i parlamentari che avevano promesso di tagliarsi una parte dell'indennità hanno ridotto sforbiciando questi tagli. Deputati e senatori restano tutti, le province, i piccoli comuni dei quali era stata promessa la fusione, vi ricordate? Sotto i 1000 abitanti, c'è stata un po' di rivolta, tutto via. Ora spunta questo giallo sulle province. Ebbene sì, le province diventano regionali. Cioè ci hanno raccontato che le province, con questo disegno di legge costituzionale, dunque già l'iter sarà lunghissimo, se mai ci sarà un iter di questo provvedimento, ma questo iter prevede che le province attuali vengano cancellate, a parte quelle di Trento e Bolzano, in virtù del loro statuto speciale. Ma nascono dalle loro ceneri, racconta Roberto Turno a pagina 12 del Sole 24 Ore, le forme associative di comuni per le funzioni di governo di area vasta sotto l'ombrello delle regioni. Non si è capito bene. O meglio, Libero pensa di averlo capito bene, titolando in prima pagina «La truffa delle province. Nel disegno di legge che le abolisce è contenuto anche il dispositivo per farle rinascere subito». Cambia solo il nome. Si chiameranno aree vaste. Le province diventano regionali. Anche il Corriere ora spuntano le province regionali. Insomma, io non vorrei che davvero sia una grossa, come definirla, vabbè, maquillage se vogliamo essere gentili, presa in giro se vogliamo essere meno gentili. Certo, Libero è sicuro di questo, la truffa province, cambiano solo nome. Ne parleremo tra l'altro alle 8.20, avremo ospite per parlare, partire in questa chiacchierata sulla casta, il presidente dell'Unione delle Province Italiane, per cercare di capire, ma allora queste province nascono, non rinascono, muoiono, ci sono, ma vedremo. Ora però bisogna aprire una pagina abbastanza ampia, almeno per come la trattano tutti i giornali, su tutta la vicenda politica che sta veramente rischiando di riesplodere. Mettetevi il cuore in pace, cari ascoltatori e cari lettori dei quotidiani, perché ora, quando verrà approvata la manovra definitivamente alla Camera, probabilmente mercoledì prossimo, sta riemergendo tutta la questione di intercettazioni, inchieste, vicende che riguardano il Presidente del Consiglio, le feste, le donne. È così. Beh, oggi l'Espresso lancia questa esclusiva con un'intercettazione datata 24 agosto, quando la Vitola, una delle tre persone latitante al momento invischiata nella vicenda della Procura di Napoli sulla presunta estorsione danni del Premier, che sapendo la notizia dal settimanale Panorama di essere indagato per estorsione danni di Berlusconi, chi chiama come prima persona proprio Berlusconi, questo secondo l'Espresso, e chiede anche tra l'altro un consiglio: che faccio, presidente, torno e spiego tutto? E Berlusconi avrebbe detto: no, resta dove sei. L'avvocato Ghedini ha smentito categoricamente questa telefonata, dicendo è assolutamente falso questa ricostruzione. Sta di fatto che tutti i giornali puntano su questo. Il premier alla Vitola, non tornare in Italia, così a pagina 12 del Corriere della Sera. E poi ci sono già tutte le reazioni, per la verità reazioni non ufficiali, perché Berlusconi non ha parlato ufficialmente, ma racconta Ugo Magri nel retroscena politico a pagina 3 della Stampa: il premier fa spallucce, non ricordo quelle parole, di aver suggerito alla Vitola che se la desse a gambe il cavaliere non lo ricorda, rammenta sì di aver avuto un po' di colloqui col suo agente all'Avana, così lo definisce Ugo Magri, però quel dettaglio su... pur così importante della conversazione gli è sfuggito dalla memoria. Che ci posso fare se non l'ho presente? Ha liquidato così bruscamente la faccenda coi consiglieri più stretti. E dunque Berlusconi, scrive Magri, non dà importanza all'anticipazione dell'Espresso. Ma ovviamente rinascono tutte queste idee di complotto. Ecco qui su Repubblica, retroscena di Francesco Bei a pagina 3. Il PDL ora teme il terremoto, ma il cavaliere vuole resistere. Non mi piego all'attacco dei PM. Ancora una volta si sarebbe sfogato ieri mattina Berlusconi. Dobbiamo subire un attacco frontale da parte dei giudici. Ci vogliono mettere a terra. Non hanno esitato a mettere in galera una coppia di genitori pur di arrivare a me. Vale a dire i Tarantini, una coppia di genitori. Però... si fa strada questo, secondo i giornali, all'interno del partito, una serie di idee che cominciano a dire: ma insomma, attenzione, bisogna pensare, perché qui sta arrivando un terremoto con nuove intercettazioni, bisogna pensare al dopo Berlusconi. Eccolo qui, basta vedere vari giornali. Berlusconi infatti sul Giornale avvisa i naviganti: io non mollo. Ma i commenti della politica, a cominciare dal Foglio, sono orientati a questo: quelli che tutto è pronto per sostituire il cavaliere, ma poi chi glielo dice? In teoria è tutto pronto, scrive il Foglio, ma in pratica c'è un problema: chi lo va a dire a Silvio Berlusconi? Nel PDL, in cui, per citare Denis Verdini, fonte Corsera, è tutto uno sbattere d'ali, esiste un piano apparentemente perfetto per sostituire in corsa il cavaliere con Angelino Alfano alla presidenza del Consiglio. Anche se negli ambienti PDL circola una leggenda, un coraggioso sarebbe riuscito a pronunciare di fronte al grande capo la parola dimissioni, ma pare sia finita malissimo per lui. E sono forse solo due Gianni Letta e Fedele Confalonieri le persone in grado di affrontare senza rischi un argomento in cui il cavaliere talvolta si diverte a parlare, molto meno a sentirne parlare. Ma l'operazione raccontata dal Foglio sarebbe questa: Schifani O meglio, lo schema è il seguente: il cavaliere salirebbe da Giorgio Napolitano facendogli presente di essere disposto a un passo indietro se il presidente della Repubblica gli usasse la cortesia di offrire un mandato esplorativo al presidente del Senato Schifani. E come si sa, Schifani in Sicilia è socio anziano del segretario del PDL Alfano, e dunque ecco che tutto porterebbe a un incarico per Alfano. Ovviamente fantapolitica, chi lo sa, ma sui vari giornali questa fantapolitica ottiene credito. Anche sul Corriere della Sera Francesco Verderami nel retroscena dice: l'offerta di PD e centristi indichi il successore. Addirittura ieri Buttiglione in un'intervista ad Avvenire ha detto: indichi il suo successore, si faccia da parte, noi gli garantiremo che tutti i processi penali, chissà, magari bloccandoli con leggi in Parlamento, verranno a decadere. Una sorta di salvacondotto per il Premier, che avrebbe reagito così, secondo Verderami: come si permettono? Mi trattano come un fascista ai tempi del dopoguerra con Togliatti alla giustizia. E poi comunque non si fermerebbe la caccia all'uomo contro di me da parte della magistratura. Il traffico. Addirittura per Libero c'è un patto Alfano-Casini per il dopo cavaliere, prove di dialogo per ricostruire la casa dei moderati, racconta Salvatore Dama, pagina 9. Insomma, avete capito, nel continuare la lettura dei giornali si parla del dopo, anche perché, ripeto, stanno per uscire, qualcuno dice, delle intercettazioni sul caso Tarantini. Certo, ci sono già i verbali dovunque sui giornali, oggi li trovate, ancora alcune notizie che si possono estrapolare dai verbali pubblicati oggi per il Corriere della Sera, per esempio con Fiorenza Sarzanini a pagina 14. Il legale di Tarantini rivela ai PM: ho ricevuto l'incarico dal cavaliere. Ecco qui, nel settembre 2010 mi chiamò il presidente onorevole Berlusconi, mi chiese di assumere la difesa di Tarantini. Subito dopo io chiamai l'avvocato Ghedini, al quale comunicai tale circostanza, e Ghedini si limitò a dirmi che Tarantini non si era trovato bene col precedente difensore. Dunque il Corriere si chiede: ma come? Tarantini avrebbe messo in moto, secondo l'accusa, un'estorsione ai danni del Premier, ma è il Premier stesso, Berlusconi, che gli trova l'avvocato. Questo secondo la ricostruzione dell'avvocato di Ghedini, che dice è stato Berlusconi che appunto mi ha detto del Premier. Poi c'è la moglie di Tarantini: io non andavo a Palazzo Grazioli perché ero incinta, mio marito portava ragazze normali, poi capitarono le mignotte. Questo avrebbe detto la moglie in un interrogatorio. La moglie avrebbe detto anche: ho sposato un cretino. Questo del marito, cioè, perché vola anche del fango di questo tipo. Tarantini che racconta di quando andai ad Arcore con il cellulare spento, questo sempre dai verbali pubblicati, in questo caso li leggo dalla Stampa, pagina 3, col cellulare spento e la batteria staccata, da quando atterra all'aeroporto di Bergamo e al serio per depistare eventuali tentativi di intercettazione. E poi ci sono le nuove indiscrezioni legate a una ragazza marocchina che si è presentata in procura e si chiama Fadil Iman, 26 anni, ha raccontato le feste ad Arcore. Sono le nuove indiscrezioni. Questa ragazza dice: ho partecipato a queste feste, una volta ho fatto la danza del ventre, racconta della presenza di Barbara Fagioli e Nicole Minetti, che a un certo punto si vestono da suore, con una tunica scura da suora, compreso il copricapo e una croce rossa sul velo, e si spogliano svolgendo balletti sexy, ovvero dimenandosi intorno al palo vestite solo di biancheria intima. Mi fermo qui, ma capite che sui giornali nei prossimi giorni ne leggeremo davvero diverse di questo tipo, come si continua a leggere della vicenda che coinvolge Penati, che ha fatto un passo indietro al Partito Democratico, l'ex presidente della provincia di Milano, il quale è indagato anche per corruzione. Ci sono, con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, le nuove intercettazioni, anche intercettazioni tra Binasco, Bruno Binasco, top manager del colosso industriale di Marcellino Gavio, e Angelo Rovati, ex consulente economico di Prodi all'epoca del suo governo di centrosinistra. Vengono pubblicate a pagina 7 dei colloqui Binasco, la doppia caparra, ecco qui intercettato anche Rovati. L'ex PD dice tutto regolare, ma certo è scattata l'inchiesta per corruzione per il caso Serravalle anche per Penati. Come dire, allora, dal punto di vista del giudiziario ci sarà, nei prossimi giorni ci saranno delle novità. Voglio andare alle notizie di cronaca che trovate sui giornali. Beh, una la troviamo dalla Francia, proviene il giornale, vi dedica una pagina, pagina 17. Ricordate quando la Francia, per fare la manovra, ha deciso anche di mettere una tassa sul cosiddetto junk food, il cibo spazzatura, colpite anche le bevande zuccherate, perché fanno ingrassare, secondo alcune disposizioni alimentari, e dunque si era parlato di tassa sulla Coca-Cola. Ora è la Coca-Cola a fare la guerra a Sarkozy. La Coca-Cola d'Atlanta, racconta Luciano Gulli a pagina 17 del giornale, dopo l'ipotesi di una tassa sulle bollicine, non ha fatto un plissé, come si direbbe in Francia, per l'appunto. La multinazionale ha fatto un comunicato di tre righe e mezzo al massimo, racconta Gulli, nella quale si dà notizia, in questo comunicato si dà notizia che è stato deciso da parte della Coca-Cola di sospendere un programmato investimento di 17 milioni di euro nella fabbrica di Pen Mirabeau nel sud della Francia. Una vendetta? Chi lo sa, sta di fatto che, appunto, senza alcun problema la Coca-Cola ha reagito così. Una notizia invece che troviamo su Libero, un'intera pagina, 19, i turisti fanno fesso il bel paese. Sapete a quanto ammonta la cifra delle multe che i turisti beccano in Italia e non pagano, perché tanto dicono siamo qui di passaggio, se ne vanno, e chi si è visto, e la multa rimane in groppa a noi? 60 milioni di euro di multe non pagate. Questo lo dice la European Municipality Outsourcing, una società che gestisce la riscossione di 350 comuni italiani per quel che riguarda appunto le multe prese all'estero. Chi sono in cima delle multe evase? Quei farabutti degli spagnoli, che l'80% delle multe che prendono da noi non le pagano. Poi quei disgraziati dei polacchi, il 75%, insieme ai portoghesi. Quei disgraziati dei rumeni, al 70%. Quei farabutti dei tedeschi, al 59%. E gli svizzeri, ma come gli svizzeri, così precisini a casa loro? Il 51% delle multe che prendono in Italia non le pagano. Cari svizzeri, io ho anche dei parenti svizzeri, insomma, ma non si fa così, non ci si comporta bene nel proprio paese e poi si viene in Italia e non si paga niente. Stavo scherzando ovviamente quando dico farabutti, adesso mi scriveranno i rumeni, i tedeschi, i polacchi dicendo che abbiamo insultato la nazione, la loro nazione. Ci fermiamo qui, oggi riparte il campionato, la Gazzetta dello Sport, voglia di gol. Questo è il titolo, la domanda che ci facciamo tutti, io, Peter Bescapè: vincerà la squadra più forte, cioè il Milan, o un'altra squadra? Chi lo sa, lo vedremo alla fine del campionato. Il giornale radio.